Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Angelo Iannone, già capo della sicurezza di Telecom in Brasile. Da quello che emerge dai primi atti, diciamo, sul fronte brasiliano, si parla anche di un contorno di corruzione di vario tipo, valigie piene di soldi che... Allora, facciamo una distinzione. Le valigie piene di soldi sono una cosa che con me non hanno nulla a che vedere, se ci riferiamo per esempio all'episodio Naginas e quant'altro. Mi sembra che Bonera ne abbia parlato in qualche intervista. E lei ne era a conoscenza oppure no? Sono cose che in maniera molto confusa circolavano come delle favole più o meno in azienda. Lei fu chiamato proprio a sostituire Bonera. Bonera era direttore della security di Team Brasile e di Latam contemporaneamente. Io vengo mandato in Brasile in emergenza perché dovevano mandar via Bonera. E per quale ragione? A me fu detto perché non lo voleva l'allora presidente Latam. Bonera pare sia stato allontanato per una microspia nell'ufficio del presidente di Telecom Italia per l'America Latina, Paolo Dalpino. Una guerra a colpi di spionaggio e controspionaggio, con 007 ed hacker protagonisti sulla scena, almeno quanto i racconti di valigie piene di soldi e intercettazioni più o meno illecite. Nell'inchiesta milanese sui dossier illegali, questa è la guerra del Brasile, almeno per quella parte fin qui nota di una vicenda finanziaria e giudiziaria ancora in gran parte da definire. Di questo si dice sicuro Angelo Iannone, classe 1962, già carabiniere del Rosso, impegnato nella lotta alla mafia, anche al fianco di Giovanni Falcone, poi passato in Telecom Italia e mandato alla guida della sezione antifrode in America Latina, proprio nel momento clou della contesa tra l'azienda di Marco Tronchetti Provera e il fondo Opportunity di Daniel Dantas. Ed è qui che trovano origine le contestazioni che hanno portato ai domiciliari, tra gli altri, Iannone, indagato per associazione per delinquere, accesso abusivo al sistema informatico, intercettazioni telematiche. Un avviso di garanzia gli è stato notificato anche per corruzione internazionale, un'accusa quest'ultima che lui respinge nel modo più categorico, anche se specifica: io parlo solo di me. Ora Iannone muove anche causa contro la Telecom perché, dice, non mi pagano più l'assistenza legale. Quel budget, devo dire, piuttosto anche contenuto. Cioè, di che cifre parliamo? Parliamo di $1.200.000, sì, all'incirca. Intanto, era in gran parte impegnato da debiti che ho trovato quando sono arrivato lì, o meglio, impegni già assunti prima del mio arrivo. Quello che mi era stato spiegato, devo dire che non condividevo pienamente questa impostazione, è che vista la guerra in Brasile, se si avevano delle persone che lavoravano sui temi delicati, o cacciatori di informazioni, io per esempio avevo delle persone che mi facevano l'intelligence istituzionale. Allora perché l'esigenza di un sistema di pagamento indiretto? Sì. Perché l'argomentazione per cui questo sistema era nato, si voleva in questa maniera proteggere soggetti che lavoravano su temi delicati o evitare che fossero comprati, tra virgolette, con un'offerta maggiore da parte del nostro avversario. In altri casi erano ragioni di opportunità. Uno dei soggetti maggiormente pagati era l'ex socio di Dantas, De Marco. Io trovo aberrante che si continui a sostenere l'ipotesi di soldi dati per attività di corruzione quando c'è una documentazione abbondantissima che evidenzia le vere ragioni per cui questi pagamenti erano avvenuti, e cioè per pagare legali, principalmente a Londra, che hanno sostenuto battaglie legali internazionali di De Marco contro Dantas. Siccome si conduceva contemporaneamente un difficile tentativo di negoziazione con Dantas, se fosse stato reso pubblico il fatto che a pagare le spese legali delle battaglie che De Marco faceva contro Dantas era Telecom Italia, avremmo inibito qualunque possibilità di negoziazione. Faceva comodo avere questo soggetto che ha fondato Opportunity e quant'altro, averlo dalla nostra parte e sostenerlo nelle sue litigation contro Dantas. La sentenza emessa a novembre dello scorso anno nel Privacy Council di Londra in favore di De Marco contro Opportunity, dove si dà atto anche di falsificazione di documentazione bancaria da parte di Opportunity. Lei dice nessuna corruzione di funzionari brasiliani. No. Assolutamente no, mi avvilisce profondamente come persona. Tavaroli invece incontra in Brasile il capo del servizio segreto brasiliano con Bonera e non con Angelo Iannone, tra l'altro senza che Angelo Iannone ne sapesse nulla, salvo poi a far trovare ad Angelo Iannone un debito con un investigatore, che quando io ho avuto semplicemente il sospetto che potesse essere avere come socio occulto, e oggi leggendo le dichiarazioni di Tavaroli si capisce qualcosa di più, il capo del servizio segreto brasiliano, ho interrotto i pagamenti. E lui, desculpe se ho falo de sta maniera, ma me gosta falare claro per l'ennesima vez. Al final da conta, você fechou un accordo con altre persone. E col fornitore brasiliano Eloy Lacerda litigò in questa conversazione che state ascoltando, registrata da Iannone e messa a disposizione di PM insieme ad altre telefonate depositate, come ancora questa con Marco Bernardini, l'ex 007 del SISD, diventato la gola profonda dell'inchiesta, le cui dichiarazioni sono state giudicate attendibili dai magistrati. Cosa c'è di vero sul fatto che lui va dicendo che su disposizione in Telecom Italia tu hai ricevuto ordine di effettuare altre questioni, di risolvere altre questioni con quella somma? Uno, io gli ho detto, gli ho scritto su un'email, sì, che ho ricevuto meno di quanto devo ricevere, perché mi mancano 40.000 euro alla fattura, quindi $40.000, quindi è meno di quanto io ma avevamo dovevo fatto ricevere. Ma avevamo fatto tutti i conti e si andava, e c'era, capito, io c'era anche dell'eccedente in base agli importi. Sì. Però una fattura di $40.000 non è pagata. Sì, ma quanto, sostanzialmente, quant'è che deve ricevere ancora questo Cristiano da te? Lui deve ricevere ancora $200.000. Io aspetto che mi venga trovato tutto per saldarlo. Se eventualmente Girardi questa fattura non se la dovesse trovare, tu hai possibilità per rimandargliela a Girardi Marco? Sì. Girardi Marco, che è quello dell'amministrazione. Io ho parlato con Bonera, ho sì, parlato anche con Giuliano, che poi mi ha detto che ma tu hai parlato con tutto il mondo, tranne con me, cazzo, Marco, con sorpresa. Tra l'altro ci sono dei grossi problemi sull'Inghilterra legati a corruzione, per cui tu riceverai quanto devi avere da società a me collegate da altre parti. Sì. Perché tu sai che corruzione sta facendo la rana e la fava, no? No, non so niente. Sta succedendo? Sta dichiarando tutte le cose che gli vogliono far dichiarare. Anche Bernardini e Ghioni parlano di corruzioni, mentre Tavaroli rivela esplicitamente ai PM che Bonera, predecessore di Iannone come responsabile della sicurezza in America Latina, gli disse che il compenso milionario liquidato a Naginals, un fornitore ingaggiato per trattare con il socio di minoranza dell'azienda italiana in Brasil Telecom, ossia Dantas, era servito in parte, si legge dal verbale, a prezzolare una commissione parlamentare. Vedremo con la chiusura dell'inchiesta cosa anche lo stesso Bonera abbia raccontato il 15 luglio 2007 alla polizia giudiziaria. Intanto, da tutto questo prende vigorosamente le distanze Iannone. Queste storie sono cose serie e vanno accertate nei modi dovuti. Va bene, Ghioni fa delle confusioni madornali, se per questo ci sono verbali di Ghioni in cui dice addirittura che Bonera aveva in tasca l'ambasciatore italiano in Brasile. Ghioni fa riferimento, chiama per esempio deputato un soggetto che deputato non è mai stato, così come Bernardini chiama ministro un soggetto che ministro non è mai stato, ma in realtà era semplicemente un ex dirigente di Telecom Italia in Argentina. Se per questo si dice anche, si sostiene anche nell'ordinanza, si insinua quantomeno che l'indagine della Polizia Federale fosse stata quasi una mia creatura, quando basta anche guardarsi un po' di stampa per rendersi pacificamente conto di come nasce l'indagine della Polizia Federale in Brasile, di quando nasce, cioè 2 anni prima del mio arrivo in Brasile nel 2002, va bene, e che nasce, peraltro, lo sviluppo ulteriore nasce come una costola del caso Parmalat. E questa inchiesta portò la Polizia Federale ad incrociare le attività della Kroll, la multinazionale delle investigazioni private mobilitata alla ricerca del tesoro di Callisto Tanzi, ma anche contro Telecom Italia, che a sua volta rispose. Storielle. Storiacce. Report sulla vita pubblica e privata dei loro manager, rapporti internazionali, di tutto di più trovò il Tiger Team, la squadra informatica pagata dalla Telecom, nell'archivio della Kroll, bucato una sera in una stanza d'albergo del Sofitel di Rio de Janeiro. Quel giorno lì c'era anche Angelo Iannone, che però dall'hackeraggio prende le distanze e dice è stato inutile. Proprio perché invece c'era un'indagine da parte della Polizia Federale in Brasile, l'attività di controspionaggio da me personalmente svolta si è limitata solo ed esclusivamente nell'incontrare alcune persone, fino ad arrivare all'incontro con un esponente della Kroll, il quale ha ammesso le illegalità commesse. Che tipo di informazioni la Kroll cercava di acquisire sul conto di Telecom Italia? Era Colanino, era Tronchetti, ma riguardavano anche la vita privata delle persone, quindi informazioni su singoli manager, sulla vita privata dell'allora presidente dottor Tronchetti. Le indagini della polizia brasiliana invece hanno messo in luce uno scenario che non è molto dissimile da quello che oggi viene contestato alla sicurezza di Telecom, anzi. Lei tutta questa documentazione sullo spionaggio, diciamo così, da parte della Kroll su Telecom Italia, l'ha vista? Ho visto la parte che mi è stata messa a disposizione dopo, lo sottolineo, l'hackeraggio, per analizzarla. Ma quello che ci tengo ancora una volta a sottolineare, l'hackeraggio occasionale, voluto, è stata una cosa assolutamente inutile e ingiustificata. La Polizia Federale brasiliana non ha saputo che farsene del materiale da noi consegnato. Che tipo di materiale? Ma guardi, la maggior parte erano report più o meno parziali, in alcuni di questi atti si parlava espressamente di controllo di mail. Con riferimento ad un dirigente si faceva per esempio riferimento alle sue abitudini nel bere, piuttosto che al fatto che aveva una vita privata più discutibile. Anche i rapporti politici? Molto sui rapporti politici. La cosa tra l'altro che sorprende, nonostante queste attività andassero avanti da oltre 2 anni, c'erano sempre programmi di approfondimento. Questo materiale che fine ha fatto? In piccola parte è stato oggetto di appunti per il management, a chi appunti di analisi. Io consegnavo a Tavaroli o a volte insieme a Tavaroli, per esempio al dottor Zambelletti, che seguiva tutta la parte internazionale. Ovviamente questo non è che voglia dire che il dottor Zambelletti sapesse che c'era stato hackeraggio, anche perché la versione che Tavaroli in mia presenza ha dato è stata la stessa che conoscevo io, che si era trattato di uno sniffaggio occasionale avvenuto a Sofitel. Lei quel materiale l'ha poi conservato? L'ho consegnato ai pubblici ministeri. Arriviamo al Sofitel, a quel giorno che viene indicato come il punto centrale dell'attività brasiliana che vi viene contestata. Quel giorno in Brasile c'era anche lei. Sembrerà paradossale, ma io in Brasile ero per tutt'altra ragione. C'era l'incontro tra Team Brasile e gli analisti finanziari, ma mentre mi trovavo lì ricevo 2 telefonate da Tavaroli. La prima in cui mi viene chiesto se ero disponibile ad incontrare Carla Cicco, visto che mi trovavo in Brasile. La seconda, il giorno dopo praticamente, mi viene chiesto invece di prendere urgente contatto con Ghioni, che io scopro solo attraverso questa telefonata che si trovava in Brasile. Quello che io faccio notare, perché non dovevo stare già con il gruppo nello stesso hotel se il motivo della mia presenza lì era lo stesso della presenza di Ghioni e gli altri. Piuttosto singolare però che ci si ritrovi tutti nello stesso albergo e che in quello stesso momento ci sia l'agente chiave della Kroll che lasci gli avversari insinuarsi nel suo computer. per quanto singolare possa apparire, intanto perché fosse lì la Kroll è immaginabilissimo dal momento in cui c'era un evento molto importante con la presenza di tutti i vertici italiani. Perché il Tiger Team fosse lì come in tante altre occasioni a protezione dei sistemi è altrettanto normale. Io non ho mai minimamente avuto nemmeno il sospetto che il Tiger Team fosse impiegato per attività di hackeraggio. Nell'unico episodio da me raccontato ai magistrati, Angra Partners, è l'unica occasione in cui mi rivolgo a Ghioni, gli chiedo se per caso conosceva degli hackers. Però nel momento in cui si sarà trovato in mano i documenti estrapolati dall'archivio della Kroll, lo avrà pensato che non erano documenti così alla portata di tutti? Assolutamente sì, l'ho poi ricollegato alla presenza di Ghioni in Brasile. Quando io sono andato a presentare il materiale anche alla Polizia Federale, ho mentito nel dire che si trattava di materiale di provenienza anonima. È scattato il mio senso di appartenenza all'azienda. Così come lei, anche i vertici dell'azienda si saranno fatti delle domande sulla provenienza di quel materiale? Saranno stati anche informati del fatto che la Kroll li spiasse? È chiaro che sapevano che la Kroll li spiava. Che cosa sapessero i vertici dell'azienda su come si era ottenuto quel materiale, francamente io non lo so. Tranne un episodio che ho riferito ai magistrati, in cui da parte di due altri dirigenti è stato chiesto a Tavaroli se erano stati spesi dei soldi per quel materiale e Tavaroli ha spiegato di no. Oggi io leggo addirittura che è stata pagata una fattura a Bernardini di ben 4 milioni e 800 mila euro sull'attività di controspionaggio alla Kroll. Casco dalle nuvole. Lei ricorda chi è che chiese a Tavaroli se fossero stati pagati dei soldi per quelle informazioni? I due legali dell'azienda. Si difende Iannone anche portando in procura registrazioni di conversazioni con altri manager di Telecom come Paolo Dalpino e Marco Patuano, presidente e direttore generale di Telecom Italia Latam, le cui voci state ascoltando, ma che dall'inchiesta milanese non sono stati toccati, è bene sottolinearlo. Argomento della conversazione, ricorda Iannone, era l'analisi dei documenti dell'hackeraggio all'Angra Partners. Queste cose qui che ci servono. Scremare già le cose più importanti, separarle per temi. L'ideale sarebbe avere questa cosa fatta proprio da fuori. Ma si mettono in qualche posto del cazzo con la legislazione che volete. Andate in Bolivia, andate a Santa Cruz, andate da qualche città. Ripeto, poi alla fine io te l'ho detto, il tutto è su una scatoletta così. Nell'azienda ero esiliato, ripete Iannone, mi vedevano come una possibile spia. Racconta delle discussioni avute con Giuliano Tavaroli, l'ex capo della sicurezza Telecom, per qualche domanda di troppo sui fondi dell'azienda, ma l'ex carabiniere Angelo Iannone parla anche dell'operazione rete che gli viene contestata dai PM, come pure del giorno in cui i servizi andarono a chiedere una mano con i tabulati telefonici. Bernardini dice che io avrei conferito a lui questo incarico di mettere in piedi una rete nazionale di sensori costituiti da pubblici ufficiali corrotti per proteggere attraverso informazioni di interesse di Telecom Italia e di Pirelli. L'unico riscontro documentale è una sorta di riepilogo che Bernardini fa nel 2005 per essere pagato da Telecom Italia, chiamando l'operazione rete, annota che trattavasi di attività svolte tra il 1 gennaio 2004, cioè sostanzialmente il mio primo giorno di Telecom Italia, è 31 dicembre 2004. L'unica persona che su mia raccomandazione ha per un brevissimo periodo lavorato per Bernardini era un ex appartenente all'Arma, già in pensione dal 2000, che ha lavorato per un brevissimo periodo ed è la stessa persona che è venuta in Brasile. Cioè sta parlando dell'episodio di Vidal? Esatto, ossia di quello che poi viene ricostruito come intercettazioni illegali, che invece intercettazioni illegali non erano, né tantomeno si parlava di tangenti politiche, ma si parlava solo di tangenti da parte di grosse multinazionali per ottenere commesse da Brasil Telecom. Ma gli viene contestato anche il fatto di aver dato appunto l'input a intercettazioni illecite. Illegali. Tra la documentazione da me consegnata vi era una cartella che si chiama Telegrafo. Sì. Il dirigente che si presta a registrarsi conversazioni che lui tiene con alcuni personaggi era un dirigente della Marconi, inglese. Anche in Brasile, se un soggetto decide di registrarsi degli incontri, non è nulla di illegale. In queste conversazioni si parlava solo di modalità con cui venivano pagate consistenti tangenti sulle altrettanto consistenti commesse da parte di multinazionali del settore a Brasil Telecom. Quindi questa operazione, diciamo, rientra nella controffensiva della Telecom contro Dantas. Questa operazione aveva una semplice finalità, dimostrare a Citigroup, di cui Dantas sostanzialmente gestiva gli asset finanziari, che venivano distolte attraverso dazioni sulle commesse risorse finanziarie consistenti versate nel fondo opportunity di Dantas alle Cayman. L'audit effettuato da Citigroup nei confronti della banca opportunity ha rinvenuto documentazione comprovante che venivano pagate tangenti, tra virgolette, da società del settore. Si parla appunto di una serie di marescialli, secondo il racconto anche dettagliato di Bernardini, dice addirittura che uno di questi, ad esempio quello di Catania, era rimasto ferito in un conflitto a fuoco da parte di appartenenti al clan di Nitto Santopaola. Io spiego ai pubblici ministeri che in una circostanza questo maresciallo, telefonandomi per farmi gli auguri di Pasqua del 2004, mi dice: sa che mi ricordo adesso che 2-3 anni fa un pentito di Catania ha fatto il nome di un dipendente di Telecom che passava notizie sui telefoni sotto controllo a Cosa Nostra. Io chiaramente ho detto: cavolo, è questo che fine ha fatto? Dice: ma guardi, non è stato dato nessun seguito, secondo me continua a fare il suo lavoro in Telecom. Io l'ho richiamato dopo un po' e gli ho chiesto se gli mandavo il mio collaboratore in Sicilia, se poteva in qualche modo aiutarlo a ritrovare questo verbale e a individuare il nome di questo dipendente. Mi ha chiamato anche una volta il comandante del ROS di Lecce, dicendomi che in una loro indagine, stesso discorso, era emerso un tecnico di Telecom che forniva notizie sui telefoni sotto controllo. Cioè, il problema è che non ci sono assolutamente riscontri o episodi specifici con cui si possa dire Angelo Iannone ha incaricato di utilizzare pubblici ufficiali corrotti per fare alcunché. Però c'è anche Tavaroli che dice: è assolutamente vero che intendevo creare una rete preventiva di monitoraggio in Italia e all'estero. Con Tavaroli, ma questo può essere plausibile, tant'è vero che nel documento si fa riferimento a documentazione consegnata a Tavaroli, non ad Angelo Iannone. Cipriani invece dice di aver ricevuto da lei indicazioni di alcune operazioni, come l'operazione Business. La parte che riguardava me era semplicemente questo: c'era l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia, Tavaroli non c'era e mi chiede a Cipriani di far capo a me, perché Cipriani sarebbe stato in grado di ottenere in anticipo le domande che sarebbero state poste da un azionista di minoranza particolarmente insidioso al top management. Ha così avuto il tempo necessario per preparare le risposte per il presidente. Punto.